Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti per iniziare la prima settimana d'estate. Abbiamo Peter Bescapè in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, andiamo a sentire i temi di oggi. Lasciati baciare dal sole, ma in tutta sicurezza. L'asma non va in vacanza, visite in vista. Forse sapete già tutto sul sole, nel caso io mi auguro che restiate comunque, oppure ci chiamiate per darci i vostri preziosi consigli, ma se come la maggior parte delle persone sapete molto, ma non tutto, e quindi avete bisogno di qualche indicazione, di qualche chiarimento o semplicemente di un consiglio in più, chiamateci 800 24 0024, il nostro numero verde è già attivo, come pure quello per inviare i messaggi al 349 238 6666. Pronti a darci indicazioni importanti che serviranno a proteggerci dal sole, due esperti in studio con me, la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Lontano ma vicino, il professor Chimenti. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. La sentiamo con un po' di eco, ma intanto dalla regia le metteranno a posto i suoi livelli. Ricordo che il professor Sergio Chimenti è direttore della clinica dermatologica dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Adesso noi, per cercare di capire quanto e come conosciamo il sole e che effetto il sole ha sulla nostra pelle, ci ascoltiamo questa scheda, recuperiamo le informazioni utili per parlare poi con i nostri esperti che sono qui a nostra disposizione sino a mezzogiorno. Sentiamo. Riesci ad abbronzarti facilmente? Assolutamente no. Divento rosso e poi torno bianco. Mi abbronzo, ma ci metto un sacco di tempo. Sì, mi abbronzo nel giro di qualche giorno. Acquisto subito un bel colorito. Al sole ti capita di scottarti? Mi scotto sempre. A volte, e solo se non mi proteggo adeguatamente. Mi scotto di rado, direi quasi mai. Non mi sono mai scottato in vita mia. Bene, allora io mi sento subito di fare una premessa. Oggi non metteremo sotto accusa il sole, non vi faremo inutili prediche né raccomandazioni che lasciano il tempo che trovano. Cercheremo di essere molto, molto concreti e quindi di suggerirvi quello che potete fare, anzi dovete fare, se volete abbronzarvi e salvare la pelle. Missione possibile, dottoressa Serri, ce la faremo? Ma certo che è una missione possibile, anzi è una missione doverosa. È come dire che siccome il cibo fa ingrassare, troppo cibo, troppi grassi aumentano il colesterolo, aumentano le malattie metaboliche, bisogna digiunare. Errato, bisogna mangiare meglio. Il sole può anche fare benissimo, consente la vita non solo per noi sul pianeta e permette la sintesi di vitamina D, ci dà allegria, per cui il sole è come un cibo che in buone dosi e con le giuste modalità non fa altro che bene all'essere umano. Professor Chimenti, quindi oggi regole di protezione per tutti e anche e soprattutto per chi soffre di una malattia cutanea. A proposito, ci sono delle malattie della pelle che con il sole migliorano, altre che con il sole peggiorano. Questa parte la affideremo a lei. Allora, professor Chimenti, vuole intanto darci una breve anticipazione così i nostri amici da casa possono iniziare subito a mettersi in contatto con noi e nel caso raccontarci se e come la loro pelle è migliorata con l'esposizione al sole o invece peggiorata? Ma senza dubbio la maggior parte dei pazienti affetti da psoriasi, soprattutto lieve e soprattutto non irritata, grazie all'esposizione del sole migliorano, così come i giovani o le giovani affette da forme di dermatite seborroica o da una lieve forma di acne in genere migliorano con la semplice esposizione al sole. Come diceva la dottoressa Serri, il sole è un amico e quindi va saputo prendere, e quindi esistono, dicevo, delle situazioni, delle malattie della pelle che invece con il sole possono peggiorare, ad esempio le malattie bollose, ad esempio chi è soggetto a una situazione erpetica e se prende il sole in modo sbagliato può riattivarsi perché scendono le difese dell'organismo e quindi e quindi il virus, che è sempre latente nel nostro corpo, viene fuori. Allora, chiamateci se non volete rinunciare all'abbronzatura, ma temete l'effetto invecchiamento. Chiamateci se avete nei e macchie, quindi avete paura che baci troppo appassionati del sole peggiorino la situazione. Chiamateci se avete i bambini piccoli e volete imparare con l'aiuto dei nostri esperti a proteggerli senza sacrificarli troppo. Se anche ogni anno dovete fare i conti con eczemi, rossori e bollicine. 800 24 0024. Un invito particolare agli amici che hanno trascorso questo weekend al mare, al lago, in montagna, spaparanzati in piscina: raccontateci in diretta com'è andata, come ha reagito alla vostra pelle. Siete rossi, dorati, a chiazzi? Siete bianchi come quando siete partiti? Aspettiamo le vostre chiamate. Una mela al giorno. L'asma non va in ferie. Capisco che questa non sia una buona notizia, ma come si dice, meglio saperlo. Uomo avvisato, mezzo salvato, dice un proverbio. E per sensibilizzare medici e pazienti a non trascurare sintomi di asma e di rinite neppure in vacanza, è partita una campagna che, attraverso un opuscolo molto chiaro, spiega in modo semplice come riconoscere i fattori scatenanti, come gestire la malattia e a cosa soprattutto prestare attenzione. Ne parliamo oggi con il professor Alberto Papi, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università di Ferrara. Professor Papi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professor Papi, le vacanze sono il momento più atteso dell'anno, non vogliamo certo farcelo rovinare da incidenti di percorso e l'asma potrebbe proprio essere uno di questi. Quindi, meglio giocare d'anticipo, seguendo semplici e facili raccomandazioni. Ad esempio, professore? La più semplice direi è proprio non abbassare la guardia. Se gli asmatici vogliono dimenticarsi dell'asma in vacanza, non devono dimenticarsi del trattamento dell'asma. Sembra una banalità, purtroppo così non è. Quando andiamo in vacanza, per fortuna, cambiamo stile di vita e quindi abbiamo situazioni diverse di attività fisica, di ambienti, di clima, che potrebbero diventare potenzialmente a rischio. Quindi è inutile rischiare. Non abbassare la guardia vuol dire avere il trattamento a disposizione. Non dobbiamo dimenticare neanche che, andando in vacanza, usciamo anche da quelle che sono le abitudini per quanto riguarda l'accesso sanitario. Potremmo trovarci in situazioni in cui non siamo comodi a strutture sanitarie. Avere i farmaci e continuare ad usare i farmaci. Non dimenticarsi dell'asma vuol dire prevenire che l'asma abbia dei problemi. Professor Papi, particolare attenzione anche nei confronti dei bambini. Gli allergici, soprattutto nell'infanzia, l'asma è un asma di tipo allergico, potrebbero avere problemi per esempio con gli acari quando si mettono in albergo, quindi avere precauzioni tipo portarsi le federe o il coprimaterasso antiacari in caso ci sia questo problema. Buone notizie invece per chi va in alta quota, perché gli acari in alta quota non si riproducono, quindi ce n'è molto meno. Allergie da pollini, campeggi per esempio possono essere un rischio, oggi sono a disposizione, ci si può informare in anticipo, il calendario dei pollini in tutte le situazioni. Sforzo fisico, prendere il farmaco prima se uno prevede di fare uno sforzo fisico, che può essere un fattore di rischio. E poi fattore di rischio generico per tutti: inquinamento, irritante, fumo di sigaretta, asmatici non fumare, anche se siete più rilassati in estate, il fumo riduce la risposta ai farmaci e irrita le vie aeree. Il fumo passivo nei confronti del bambino è una situazione irritante aggiuntiva, un rischio da non correre, ancor meno in vacanza. Allora, tutte e altre di queste raccomandazioni e consigli le trovate su un opuscolo che potete scaricare sul sito asmerinite.it. Professor Papi, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, a risentirci. Pronto soccorso. Torniamo ad affrontare l'argomento del giorno, parliamo di sole. Ci scrive già Nadia da Treviso chiedendoci: potete dedicare un piccolo intervento sulle creme solari, perché finora ho sentito molti pareri. Certo, la trasmissione di oggi vuole aiutarci proprio a scegliere il solare su misura per noi, ma vorrei prima aprire un piccolo spazio su questo sole, che lo sappiamo è un grande seduttore a cui non è facile resistere, insomma farci baciare da lui ci piace, ma negli ultimi tempi sembra diventato più focoso, o sbaglio? In linea con noi il colonnello Mario Giuliacci di Epson Meteo. Buongiorno colonnello. Buongiorno. Lei si fa baciare dal sole, colonnello? Come dicevamo, ho sentito male. Lei si fa baciare dal sole o scappa? Io ho la carnagione chiara, per cui evito assolutamente il sole. Preferisco meglio coprirmi sotto un parco alberato e godermi lì l'estate. Piuttosto che... Lei ama l'ombra, ma questo sole è diventato più, metto le virgolette, cattivo? Bacia no, di più? Diciamo che il buco dell'ozono alle nostre latitudini non c'entra affatto, perché la riduzione dell'ozono alle nostre latitudini, l'ozono quello buono, quello che sta intorno a 20-30 km d'altezza, l'ombrello della vita, insomma, è da noi appena il 4-5%, quindi una diminuzione irrisoria. Anzi, negli ultimi 10-15 anni ci sono sintomi di ripresa di ricucitura del buco di ozono, non solo al polo sud ma anche alle nostre latitudini. Quindi se aumentano certe patologie della pelle o se meno una sopporta di meno il sole, non è colpa certo del buco dell'ozono. Casomai sono cambiate le nostre estate. In che senso sono cambiate? Soprattutto luglio e agosto sono diventate con più giornate di sole, quindi sono maggiori le giornate con cielo sereno e soleggiato di cui godiamo rispetto una volta, perché in estate piove un po' di meno. È vero che fa anche più caldo, ma è un caldo dovuto non tanto ai raggi solari, ma alla presenza di questo anticiclone nordafricano che al caldo di origine solare aggiunge il suo caldo di origine siberiana. Ora, il caldo siberiano non contiene raggi ultravioletti, quindi voglio dire, non fa male. Per cui, da questo punto di vista, io direi non darei colpa al clima se certe patologie magari si dice sono in aumento, ma probabilmente al nostro modo di esporci al sole. Ci si espone di più con me, rispetto al passato, con meno copertura, con il minimo indispensabile per lasciare scoperte pochissime parti del nostro corpo, e quindi ovvio che le conseguenze poi si vedono. Insomma, colonnello, chi è causa del suo mal pianga se stesso, ma noi oggi impareremo a proteggerci, a renderci il sole amico. Intanto la saluto e la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. Altrettanto. E buona ombra, dato che lei sta all'ombra invece che esporsi al sole. Ma andiamo a sentire Chiara, che ci chiama da Bergamo, se al sole si espone o se con il sole si scherma. Chiara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Noi ci esponiamo al sole tranquillamente, però volevo chiedere alla dottoressa. Sì. Io avevo una cosa, avevo letto un articolo che diceva che è inutile mettere ai bambini, soprattutto piccoli, le creme protettive, ma è più utile tenerli all'ombra con la maglietta comunque. Sì. Noi siamo tutti di pelle chiara, occhi chiari, e io fin da quando i bambini sono piccoli ho sempre messo loro la crema a copertura totale. E questo articolo diceva che anzi è dannosa, perché fa comparire nei, lentiggine, fa aumentare tutte queste macchie della pelle. Volevo sapere cosa pensa lei, cosa... Certo. Si può fare. Grazie Chiara, che ci mette sul tavolo uno spunto di discussione molto interessante, perché puntualmente ogni anno sulle creme se ne leggono un po' di tutti i colori, soprattutto quando le creme sono dedicate ai bambini, che sappiamo per i quali c'è un'indicazione di non esporli selvaggiamente al sole, come si vede qualche volta, no? nelle spiagge di questi Infatti. Piccolini che anche nelle ore di pranzo corrono senza... Però come spesso succede, questa troppa informazione può generare anche veramente della grande confusione, e c'è della grande confusione, perché dal dire che i bimbi vanno completamente coperti o con indumenti o con protezioni 50+, al dire che queste stesse protezioni causano la formazione di nei e macchie, al dire no, non bisogna mettere niente, esiste una norma di mezzo, che è il buon senso, cioè quello che si diceva un tempo: i bambini possono stare in spiaggia, possono stare al sole, devono stare in spiaggia, devono stare al sole. Il sole favorisce nel bimbo anche, soprattutto è particolarmente importante, la sintesi della vitamina D. Sì. Nelle prime ore del mattino possono stare tranquillamente, i primi giorni magari con una protezione alta, possibilmente scelta tra le linee per bimbi che sono in genere per pelli sensibili, senza filtri chimici e solo con filtri organici, tra cui il re dei filtri organici è l'ossido di zinco. l'ossido di zinco è quello che dà il bianco delle paste bianche per quello i bebè. Per i sederini dei bambini. Se non si ha proprio niente a disposizione, anche una pasta per bebè semplice può andare bene sul viso, sulle spalle, sulle zone esposte del bimbo, insomma, in genere, che sono quelle. E negli orari, quegli orari, diciamo, in cui il sole picchia di più, con gli orari in cui l'ombra è più corta di quello che riproduce, cioè del nostro corpo, quegli orari i bambini dovrebbero stare all'ombra. Se invece in quegli orari i bambini stanno al sole, è giusto sì mettere una maglietta o utilizzare una protezione. Non esistono più oggi gli schermi totali, ci sono gli schermi chiamati 50+. Ecco, in quegli orari è bene mettere una protezione alta, ma è altrettanto bene che qualche raggio solare dolce arrivi alla pelle di questi bambini. È altrettanto importante stimolare la produzione di melanina, che viene appunto stimolata dai raggi solari, perché non si può lasciare la pelle completamente inerte. Io sono contraria all'idea di tenere i bambini sempre all'ombra. Un pochino di sole alle 9 del mattino gli fa bene, l'eccesso gli fa malissimo. Professor Chimenti, perché abbronzarsi sì, ma senza scottarsi, perché le scottature vengono in qualche modo ricordate dalla nostra pelle che non dimentica. Le ustioni solari causano infatti dei danni anche a lungo termine. Professor Chimenti, senza fare del terrorismo, perché tenga conto che noi apparteniamo alla generazione che si è abbronzata quando ancora la cultura della fotoprotezione era scarsina. Se poi posso fare una parentesi, chiediamo al professor Chimenti lui che cosa usa, ecco, per proteggersi al sole. Certo, professor Chimenti, lei si è mai scottato nella sua vita? Ma io sì, quando ero piccolo. Quando ero bambino, come giustamente ha detto lei, non c'era questa cultura della fotoprotezione, quindi ricordo perfettamente, stavo al mare ad Anzio e tornai a casa completamente ustionato alle spalle. E quindi, però, giustamente oggi, per rispondere alla domanda della dottoressa Serri, io vado in giro con un cappello a larghe falde proprio per evitare di prendere il sole, che fa anche molto, no? Aggiunge anche fascino, quindi il cappello. Però perché è importante ricordare i nostri amici da casa, non solo nei confronti dei loro bambini, ma anche per noi stessi, per noi adulti, che non bisogna assolutamente evitare di scottarsi? Perché, professore? Ma dunque, sostanzialmente perché si può dare luogo a tre tipi di, si potrebbe, voglio dire, adesso senza, come ha detto giustamente lei, senza fare del terrorismo, il sole preso male può determinare, soprattutto a livello del volto o degli arti, l'insorgenza di queste lesioni, dei cosiddetti tumori della pelle, quindi sì, che si manifestano con delle forme, delle squamette, delle lesioni nodulari proprio vere e proprie. E quindi questo è un tipo di tumore che, per esempio, noi in Italia non abbiamo delle stime certe, sì. In Australia, dove sono stati molto più scrupolosi di noi, ad esempio è stato descritto che nel 2008 sono stati riportati 180.000 casi appunto di questo tipo di tumore, che peraltro è curabilissimo, però insomma bisogna sempre trattarli. E questo è un tipo. Il secondo tipo di tumore è invece una cosa un pochino più seria, perché proprio per un discorso di immunosoppressione, soprattutto a livello del dorso, col tempo in soggetti predisposti eccetera eccetera possono insorgere questi tumori che sono più aggressivi, che si chiamano melanomi. E quindi insomma sarebbe buona regola, come ha detto giustamente la dottoressa Serri, di prendere il sole con grano salis. Ecco. Andiamo, anzi restiamo a Milano, ci chiama Luca, buongiorno. Buongiorno. Eccoci Luca. Io volevo porre una piccola questione. Io sono affetto da psoriasi, direi in maniera non grave, neanche sì, leggera, però a seconda poi un po' dei momenti della vita e dell'anno. E ho notato che la mia psoriasi cede molto volentieri al sole e al mare, cede meno volentieri solo al sole, cioè quando io sono in montagna, per esempio, d'estate naturalmente, la mia pelle gode molto meno del sole di quanto non avvenga al mare. Questa cosa mi deve portare a stare più spesso al mare? Vuol dire che il mare, l'aiuto del mare è determinante col sole? E ancora un'ultima cosa che devo chiedere agli illustri professori: io sono maleducato rispetto al sole, nel senso che inizio la mia esposizione al sole con poca crema, mi proteggo un po' più in là, quasi a togliermi subito queste fastidiose macchie. E questa cosa non credo che sia proprio una trovata eccezionale, per me funziona, però vorrei che qualcuno mi dicesse che faccio male o che faccio bene. Grazie Luca. Allora, può dire se fa bene o se fa male il professor Chimenti. Professore, dunque, è chiaro che trova maggior beneficio da questa associazione acqua salata, sole. Sì. E quindi questo è un cocktail, diciamo, che fa bene alla psoriasi nelle forme lievi. Sì. Nelle forme lievi. Ripeto, il sole fa bene nell'80-85% dei casi, perché ci sono dei casi nei quali il sole invece non fa bene, ma può far peggiorare la psoriasi. Comunque in generale possiamo dire che il sole fa bene alla psoriasi. E, nel caso del signore di Milano, Luca, se non sbaglio. Bravo Luca. Ovviamente un minimo di fotoprotezione sarebbe raccomandabile. Dottoressa Serri, per Luca da Milano e per le persone come Luca che si confrontano con una psoriasi che è lieve e che migliora con la combinazione mare e sole più che solamente il sole della montagna, quale fotoprotezione possiamo dire? Luca ha già detto: io non sono tanto educato, mi proteggo un po' dopo e poco. Come invece tutti gli uomini, in genere gli uomini sono maleducatissimi, cioè non rispettano, restano solo maleducati al sole, li prendiamo. Infatti, odiano mettere creme, questo in generale chiaramente, per cui io quello che posso suggerire a Luca e a chi si comporta come lui è un'esposizione pure senza niente, ma sì, sono la dermatologa che lascia il sole senza niente per circa un'ora e mezza la mattina, dalle 9 alle 10, 10 e mezza. Dopodiché esistono degli bellissimi spray solari che non sono untuosi, almeno a protezione media che è una 15-25, e in realtà più se ne mette più protegge, una buona protezione media non untuosa in spray tra le 10:30 e le 16, e poi facciamoci pure una doccia e stiamo senza nulla. Questo se il fototipo copriamoci è alto, però. Sì, copriamo almeno un perizoma. Almeno un perizoma. Se il fototipo però lo consente. Cioè, voglio dire, se al sole ci si abbronza almeno un po' e si produce della melanina, perché se al sole ci si scotta sempre, in quel caso è bene usare solo protezioni alte negli orari centrali della giornata e protezioni medie prima mattina e tardo pomeriggio. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di sole, come scegliere la protezione adeguata. Andiamo a Napoli, ci aspetta Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Vorrei fare una piccola domanda agli esperti. Io sono un amante del sole, del mare. Lo credo, Mario, a Napoli. E infatti, quindi, però negli ultimi anni la mia pelle ha tirato fuori dei piccoli angiomi, cioè delle piccole macchioline rosse, in particolare sull'addome, sul viso e sugli arti, insomma, stese un po' tutto il corpo, di colore rosso fuoco. Questi angiomi, vorrei chiedere agli esperti, sono compatibili con il sole? Cioè, consigliabile un'esposizione al sole prolungata? E se sì, eventualmente con quale protezione? Allora, coinvolgiamo entrambi i nostri esperti. Professor Chimenti, angiomi e sole, una relazione possibile o bisogna avere cautela? E poi sulla protezione chiediamo alla dottoressa Serri. Ma guardi, non credo che il sole abbia giocato un ruolo fondamentale, diciamo, nel far sì che al signor Mario venissero fuori questi angiomi. È chiaro che da un punto di vista terapeutico basta fare un trattamento con il laser, è un problema molto banale che si risolve tranquillamente. Già che lei mi parla di laser, professor Chimenti, così rispondiamo ad alcuni sms che proprio riguardavano laser, se si può fare in questa stagione per togliere macchie. Adesso è un po' tardi o sbaglio? Adesso è un pochino tardi, sì. Converrebbe aspettare diciamo metà fine settembre. Ecco, perché... quindi portiamo le macchie, gli angiomi in vacanza con noi e poi pensiamo. Portiamo il problema in autunno. Ma dottoressa Serri, per queste pelli un po' segnate, parlo di angiomi, ma anche molti ascoltatori e ascoltatrici in realtà mi chiedono di cuprose, quindi anche le teleangiectasie, i capillari, richiedono una protezione ulteriore. In quelle zone dobbiamo mettere una protezione superiore ai 50 o vale il buon senso? Beh, non esiste una protezione superiore a 50 più, perché nulla è dimostrato possa proteggere sopra il 50 più, e questo è il motivo per cui è vietato oggi la dicitura schermo totale. In ogni caso, soprattutto per quanto riguarda le eritrosi o cuperose, che eritrosi è il termine più medico, diciamo, siccome è dovuta anche a uno sfiancamento della parete elastica di questi vasellini causata proprio dai raggi ultravioletti lunghi, gli UVA, sicuramente una buona protezione fa bene, ma anche una buona protezione antiradicalica, anti-ROS, quindi sia localmente sulla pelle, sia magari per bocca, assumere sostanze che siano dei fattori di protezione cellulare, come i carotenoidi, il licopene, il mirtillo e queste cose. Sembra che lei abbia letto il messaggio di Gabriella da Rapallo, che ci scrive: quest'anno mio figlio, di carnagione chiarissima, fototipo rosso, ha dimenticato di prendere il beta carotene in capsule. Il farmacista gli ha detto che è troppo tardi e quindi inutile, è vero? Non è mai troppo tardi. Come diceva la mia trasmissione, quando ero bambina c'era il maestro Manzi e ora c'è la Serri che dice la stessa cosa. Sia degli integratori per bocca come il beta-carotene e come altri integratori, fattori di protezione cellulare per i bimbi, sia un'assunzione proprio di frutta e verdura fresca ricchi di carotenoidi, quindi pomodori, una carota cruda, fanno benissimo e non è mai tardi per iniziare. In linea con noi ho il piacere di avere un amico, Carlo Conti, che vediamo, lo seguiamo con l'eredità, che riseguiremo a settembre. Carlo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi. Senti Carlo, bello, bravo e abbronzato, così si dice di te, e anche gentile, ma questa abbronzatura? Ma io credo che sia una questione di pellaccia. Calimero ti chiamano gli amici, chiamano Calimero, vero? E sono sempre stato il Calimero della televisione. Probabilmente da piccolino avevo dei problemi di vista e allora mangiavo molte carote. Non hanno funzionato alla vista, ma hanno funzionato alla pelle, probabilmente deve essere stato questo. No, non lo so, è proprio una questione di pigmentazione. Io non ho la fase del rosso come tutti gli umani, ma passo direttamente dal mio colore scuro al colore scurissimo dopo poche ore di sole. Insomma. Carlo, la dottoressa Serri dice che sei un fototipo 6. Ma anche nero. 38 secondo me. Senti Carlo, prima che tu arrivassi con la dottoressa Serri, il professor Chimenti, da gentiluomo non ci ha contraddette, dicevamo che gli uomini in genere sono più maleducati al sole, si danno poca crema, vogliono prenderlo tutto in una volta, insomma sembra fanno un po' i duri. Tu ti proteggi oppure avendo tu questo fototipo molto scuro fai finta di nulla? Io faccio erroneamente finta di niente. Eccolo. Specialmente qualche anno fa, ora ci sto un pochino più attento, ho capito l'importanza anche di proteggersi, o comunque anche se ho questa pellaccia, anche se sono una specie di del vecchio il mare, però comunque un po' di protezione soprattutto dopo l'esposizione al sole la prendo, e quando mi capita di fare delle vacanze invernali, non so, quest'anno ho fatto una settimana a Zanzibar, allora lì ho proprio messo la protezione anche mentre ero sotto il sole, insomma. Pochissimo, mi pare 2 o 3 o 4, non so, la dottoressa non quelle 10-12, però l'ho messa. Dottoressa Serri, vuole dare un consiglio a Carlo Conti? Ma sì, perché numero uno, la protezione non si mette dopo il sole, quello è un dopo sole, serve per calmare la pelle, lenire, a un'azione restitutiva, e poi al giorno d'oggi le protezioni 2 3 non sono neanche più considerate protezioni. Un minimo per essere considerato protezione è 6, ed è la famosa protezione bassa. Però quello che voglio dire a Carlo Conti è che non parliamo di malattie, non parliamo di tumori della pelle, eccetera, ma proprio per prevenire l'invecchiamento della pelle e non diventare come quei vecchi pescatori o quei vecchi scalatori che sono sicuramente facce bellissime ma cosparse di rughe, un minimo di protezione adesso, diciamo almeno tra mezzogiorno e le 4, servirebbe proprio anche a lui, anche se ha questo fototipo così fortunato. Così fortunato. È un fototipo fortunato perché la pelle scura è biologicamente superiore alla pelle chiara. Carlo, allora, quando ti spalmerai la crema nelle ore centrali della giornata, ammesso che tu abbia tempo in questi giorni di andare al sole, pensa a noi. Noi pensiamo a te. Lo farò con grande attenzione e grazie dei consigli. Grazie a Carlo Conti. Grazie a voi. Professor Chimenti, parliamo. Sì, anche no, per chiudere l'argomento, anche perché Carlo Conti con il viso, con il volto ci lavora e quindi giustamente, come diceva la dottoressa Serri, è meglio prevenire in modo tale da non avere, da poter allungare il suo tempo di, diciamo, lavorativo il più a lungo possibile. Professor Chimenti, rispondiamo ad Antonio che ci scrive da Lanciano. Ci scrive: mia figlia a 14 anni ha dei grossi nei non sporgenti sulla schiena. Ci sono problemi con il sole, bisogna proteggerli, può mettersi al sole. Che cosa fanno i solari con i nei? Ma guardi, ovviamente bisogna proteggersi. Non esistono prove certe al 100%. Posso però riferire di uno studio fatto da alcuni anni fa da alcuni miei colleghi in Austria, confermato recentemente da un grosso studio americano, dove si vede proprio clinicamente e istologicamente che le persone che hanno dei nei, quando tornano, diciamo alla fine di agosto, tornano a casa per un controllo, questi nei sono modificati in forma e dimensioni. Se poi non si fa nulla e si aspetta, diciamo, una ventina di giorni, 20-30 giorni, poi i nei ritornano nella condizione in cui erano, si trovavano prima. Quindi evidentemente i raggi ultravioletti, insomma, il sole determina un certo scombussolamento, diciamo, nel neo stesso. Quindi io direi che è buona norma proteggere soprattutto, diciamo, consigliare di proteggere soprattutto chi è portatore di molti nei, che mi sembra di capire dalla descrizione del signore di Lanciano essere dei nei giunzionali e quindi potenzialmente essere quelli un pochino più pericolosi. Dottoressa Serri, andiamo allora ad acquistare la crema insieme. Prima si diceva pelle chiara, protezione alta, pelle scura, protezione media o bassa, e facevamo molto riferimento al colore dei capelli e degli occhi. Poi abbiamo visto che non funziona, perché ci sono biondi che si abbronzano molto e ci sono invece bruni che si arrossano. Quindi qualche cosa di diverso bisogna considerare, ci aiuti lei per scegliere la crema giusta. Bisogna considerare il proprio fototipo, ovvero come reagisce alla propria pelle in seguito all'esposizione solare, cioè dopo mezz'ora al sole si diventa rossi, si assorbe bene il sole, nel senso si para bene il colpo, si produce melanina, non si produce per niente, e questo dà l'indice del fototipo, che più è basso più alta deve essere la protezione. Il fototipo basso è quello che si scotta sempre, sì, e non si abbronza mai, il più alto è quello che si abbronza sempre e non si alla scotta Carlo mai. Conti, però per vorrei intenderci. Aggiungere una cosa, sì, quando si sceglie un solare è molto importante non scegliere solo il tipo di protezione bassa, media, alta, che deve essere UVB e UVA, ovvero SPF più PPD, ma bisogna anche scegliere in base al proprio tipo di pelle, perché una pelle seborroica, grassa, con tendente all'acne, non può utilizzare lo stesso solare adatto a una pelle particolarmente secca o a una pelle che si disidrata. Agenzia di viaggio, 9 giorni, tutto compreso, sono stato in Egitto, per Alamein, arrivo, lettino, l'acqua zigrinata dal ventarellino di maestrale, silenzio, uccellino. Arriva la mia moglie, una borsa 70x40, una bombola da sub arancione, col figliolo. Faccio, non prende la bombola, guarda, la piscina è bassa. No, no, è il tubo della crema solare. Tira fuori questa bombola, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa un'anguilla. Poi prende il figliolo, mette lì, ciap, ciap, ciap, girati, ciap. Dopo mezz'ora era un pane di burro mio figlio, per guardare negli occhi così. Io un'ora sotto il sole, fa, senti amore, me ne dai un goccino anche a me? Guarda che costa tanto. Era Paolo Migone con questa crema solare, sì. Dottoressa Serri. Parleremo anche poi di quantità. Sì. Ogni quanto rinnovarla senza fare come la moglie dello sketch. Ma dicevamo, è molto importante il tipo di pelle. Sì, infatti, anche perché oggi i solari troppo untuosi, troppo grassi, danno in genere fastidio. Danno fastidio addosso, danno fastidio quando fa caldo perché ci si sciolgono addosso. Danno fastidio in chi ha la pelle un po' grassa perché fanno venire addirittura delle acne in certi casi, o comunque delle eruzioni follicolari sul volto, sulla schiena e sul décolleté. E non piacciono perché sono appiccicosi, scivolano da tutte le parti, per cui si studiano veicoli comunque meno untuosi. Il veicolo del solare deve aiutare a tenere tutti i filtri protettivi in superficie, non li deve far penetrare. Sono prodotti che devono essere studiati molto bene e quindi l'offerta del mercato è piuttosto vasta al giorno d'oggi. E quindi diamo noi dobbiamo qualche indicazione. Pelle grassa verso... Pelle grassa deve prendere solari adatti. Gli oli solari non sono in genere indicati. Possono essere utilizzati dai fototipi più alti, cioè da chi si abbronza molto, e soprattutto sugli arti, cioè braccia, gambe, magari addome. Da altre parti possono dar luogo a follicoliti, acne, quindi infiammazioni. Quindi prendo un latte? Prendo un latte, prendo uno spray, prendo soprattutto un tipo di latte che non lascia unti, che non dia quella sensazione di sciogliersi sulla pelle. Ci si consiglia con chi vende il prodotto, anche perché al giorno d'oggi io mi auguro davvero che chi vende prodotti per la pelle sia sempre più competente. Non dimentichiamo che mentre in Italia i filtri solari e i prodotti solari sono dei cosmetici, negli Stati Uniti i filtri solari sono approvati dalla FDA, cioè sono considerati proprio dei presidi farmacologici, quasi dei farmaci, infatti vengono inseriti nella categoria dei cosmeceutici, per cui comunque occorre un certo tipo di conoscenza. Bisogna affidarsi al farmacista o alla profumiera, o comunque cercare di scegliere con un pochino di attenzione in più, anche eventualmente chiedendo un campione. Andiamo a Rimini, ci chiama Sergio. Buongiorno Sergio. È caduto Sergio. Abbiamo Gabriella invece che ci chiama da Parma. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a lei. Bellissimo l'intervento della dottoressa per quanto riguarda le competenze delle varie persone cui noi dobbiamo rivolgersi per acquistare queste cose. Io propongo un semplice quesito ma abbastanza problematico: un'allergia al nickel. E quindi il discorso, soprattutto estivo, dove si squamano le mani, soprattutto le tre dita di ogni mano, quindi le tre dita del contatto, diventa qualsiasi cosa insopportabile. E il discorso appunto della competenza, anche gli stessi dermatologi si fanno dei tentativi, non c'è niente di sicuro, perché chiaramente ognuno di noi, al di là che c'è un'alimentazione da eliminare, eccetera, però diventa veramente difficile. Io ho due bimbi, uno grande che ormai se ci do la crema gli do quel fastidio, ma il piccolino devo dargli la crema come devo darla a me stessa, avendo poi una cuprosa e pelle chiarissima. Sì. Io non ho indicazioni da parte di nessuno, perlomeno dopo non mi fido perché vedo delle incertezze. Incertezze confondono, dottoressa Serri, e poi il professor Chimenti. Tutta la mia empatia, chi ha un'allergia al nickel. Il nickel è un metallo ubiquitario che è presente un po' dappertutto. Nei cosmetici non è presente come ingrediente mai in nessuno perché è vietato per legge, ma può essere presente come impurezza. Oggi i cosmetici da questo punto di vista sono sempre più sicuri perché non possono più contenere come impurezza sempre più di un tot di parti per milione di nickel. Il nickel però non viene dalle turbine con le quali sono fatti i cosmetici, gli ingredienti, le materie prime, per cui più il cosmetico è semplice, più è fatto con ingredienti diciamo purissimi, meno è elaborato e meno impurità da nickel contiene. Questo per quanto riguarda i cosmetici, però bisogna calcolare che per esempio la moneta dell'euro è un trionfo di nickel, quindi col nickel veniamo in contatto costantemente. Per difenderci bisogna mettere tipo sulle mani gli isolanti, ci sono dei guanti liquidi in gel o in spray che si possono utilizzare. usare sempre dei guanti quando si toccano, quando si fa del bricolage, quando si fa qualsiasi cosa, scegliere con attenzione i prodotti cosmetici, per cosmetici intendo anche i detersivi casa, intendo tutti i detergenti. Non per niente io ho fatto Skineco, ho fatto con altre due colleghe, tra l'altro di cui il nostro professor Sergio Chimenti è membro del comitato scientifico, perché occorre molta attenzione prestare molta attenzione agli ingredienti che mettiamo a contatto della nostra pelle e che poi va nell'ambiente. Skineco, ricordo, l'associazione di dermatologia ecologica, ha un sito, si scrive skin come pelle, eco come ecologia, esatto, quindi skineco.org. professor Chimenti, io tornerei un attimo sulle dermatiti, perché sono tanti i nostri ascoltatori che chiedono informazione. La dermatite migliora con il sole, ma va un po', la pelle va adeguatamente protetta, è così? Sì, vorrei fare una piccola premessa riallacciandomi un pochino a quello che ha detto la dottoressa Riccarda Serri, sì. E cioè che sì, è vero che il farmacista deve consigliare, eccetera, però forse sarebbe anche auspicabile che una persona che ha qualche problema, così magari si rivolgesse a al proprio dermatologo, un dermatologo che conosce bene il settore, proprio perché per farsi dire in base al suo fototipo quali sostanze utilizzare. Mm. Fatta questa precisazione. Ma sa, dermatite è un termine che significa Dice tutto e niente. Voglio dire, le malattie infiammatorie della pelle sono tutti dermatiti, quindi è chiaro che una dermatite da contatto va trattata in un certo modo, così come una dermatite allergica va trattata in un altro modo, una dermatite atopica è sempre una dermatite, quindi bisognerebbe essere un pochino più diciamo specifici. Comunque in genere diciamo che le dermatiti al contatto diciamo migliora, nel senso che si sposta il paziente dal suo habitus naturale, si porta in vacanza e quindi in genere diciamo si allontana da quella che è la causa scatenante di questa dermatite, ripeto in genere. Certo. Alle dermatite abbiamo dedicato puntate intere, è vero il termine è un po' generico, ma dietro il termine dermatite, professor Chimenti, i nostri ascoltatori mettono tutte quelle reazioni della pelle, vuoi da contatto, vuoi allergia, che creano comunque molto fastidio e che ci fanno capire che la nostra pelle è più sensibile, quindi, esatto. Quindi è necessario che noi la proteggiamo, la coccoliamo. La proteggiamo prima e la coccoliamo dopo l'esposizione al sole. Questo è molto importante. Certo. Andiamo a Sergio, che ci chiama da Rimini e l'abbiamo ripescato. Buongiorno Sergio, benvenuto. Grazie a voi. E mi era caduto sul più bello, sì, Sergio. Sì, pazienza. Ecco, rapidamente, che siamo quasi in chiusura. Allora, io chiedevo, siccome io ho una dermatite seborroica nei capelli, e qualcuno mi ha detto che andare al mare, l'acqua salata e il sole, diciamo che è un toccasana? Può far bene. Può far bene. Dottoressa Serri, lo mandiamo Sergio è da Rimini, non è che lo mandiamo, lo lasciamo? Beato lui. Beato lui. Comunque certamente il sole fa molto bene alla dermatite seborroica, come fa bene l'allegria, la gioia e il relax delle vacanze. E ecco. Certo che la pelle ci guadagna. Mm. Allora noi prima di salutarci, oggi abbiamo parlato di pelle, i nostri esperti sono a vostra disposizione, potete come sempre scriverci a essere benessere@radio24.it. Voglio farvi un invito. Un invito che arriva dall'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, di cui parliamo spesso, che da domani fino al 26 giugno è proprio collocata davanti al Sanit di Roma con un'unità mobile oftalmica, e tutte le persone che passano dal Sanit senza bisogno di prenotazione possono effettuare una visita di controllo per la loro vista. Infatti questa iniziativa si chiama Visite in Vista, quindi è un invito che posso già rivolgere al professor Sergio Chimenti, chissà mai a Roma passa di lì. Professor Chimenti, con molto piacere, anzi invito tutte le persone che ci stanno ascoltando a fare altrettanto. Ecco. Io da da parte mia ci andrò. Ecco, quindi l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, come sempre, a disposizione, va nelle piazze, tantissime iniziative proprio per diffondere la cultura della prevenzione, come sottolinea spesso l'avvocato Castronovo, che è presidente dell'AIAPB, e è il modo per sconfiggere la cecità evitabile. No, ci tengo anche a sottolineare che, sì, a proposito di sole, il sole danneggia gli occhi, per cui bisogna mettere occhiali da sole. Sono stati fatti dei lavori, soprattutto negli Stati Uniti, che dimostrano come una esposizione eccessiva al sole provochi fotocongiuntiviti, cheratiti solari e anche perdita momentanea della vista, cataratta, degenerazione maculare. Quindi controllate la vista, proteggete i vostri occhi. Professor Chimenti, grazie per essere stato grazie con noi. A voi, dottoressa Serri, noi ci sentiamo presto e invece con voi a domani dopo il GR delle 11. Buona giornata. Essere e benessere.